Tu la sai la verità? Hai un'idea? Sì, che la sai. No, non ti voglio... Sì? Cioè, sai chi è la talpa? Lo sanno un po' tutti, dai, io penso che lo sanno un po' tutti. In effetti, dai, fate una bella figura da cioccolatino, come si suol dire dalle mie parti. Però ormai è andata, la prendiamo con filosofia. Senti, ma ti credo che qualche giocatore minimo abbia qualche problemino di corsa. Il limite di velocità non corriamo il rischio di prenderlo. No. Tutti convocati di Carlo Genta. Noi abbiamo due volte soltanto in 26 anni cambiato un tecnico in corsa. Abbiamo un rapporto molto buono con l'allenatore, che è sicuramente un'ottima persona come uomo prima ancora che come allenatore. Per quanto riguarda i suggerimenti del Presidente, più suggerimenti del Presidente, quando parliamo lui esprime le sue idee, i suoi pensieri, e io li accetto ben volentieri, perché anche lui dopo 25 anni di Milan, 26 anni di Milan, è un uomo di calcio, credo che è il Presidente che ha vinto più di tutti al mondo, e quindi li accetto ben volentieri. Ho avuto il piacere di salutare anche il Presidente, quindi tutto in ottimi rapporti, e questo, diciamo, è la cosa, oltre a, no, le coppe vinte, il rapporto che è rimasto con tutte le persone della società. Quindi non esiste. Allegri è ben felice di rimanere a Milano e ci rimane. No, quest'anno abbiamo cambiato tantissimi giocatori, quindi la cattiva partenza non credo sia dovuta all'allenatore, bensì ai lavori in corso che c'erano. Intrigo a Palazzo Rossonero, non a Palazzo Grazioli, al Palazzo Rossonero, nei sotterranei del Palazzo Rossonero. Franco Piantani, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Cacci sordi, sì, e vediamo se caccia anche l'allenatore. Alberto Costa, inviato del Corriere della Sera, nessuno ne sa più di lui. Ciao Alberto. Ciao, buongiorno. Allora, ti dico la mia sensazione, poi tu la smentisci. Sensazioni da sottobosco, da sottoscala, da sotterranei del palazzo. Berlusconi contro Galliani, Berlusconi vuole Seedorf, Galliani vuole Allegri, Berlusconi non vuole più Allegri. Ieri sera a una cena ha detto, dopo la partita con l'Insiena, sarà il nuovo allenatore della Roma, come tu hai scritto tempo fa. Allora, cosa sta succedendo al Milan? Tempo fa, due settimane fa. Sì, due settimane fa. Pochi, sì. Cosa sta succedendo? Diciamo che tu hai sintetizzato abbastanza bene la situazione, che in tutta sincerità non è nuovissima. Che Berlusconi non abbia mai amato, ovviamente in senso calcistico, Allegri è un fatto notorio. Che poi perché Allegri non sia mai piaciuto, non abbia mai convinto Berlusconi, questo è un fatto un po' meno notorio, perché nessuno lo capisce, neanche in società, probabilmente la cosiddetta, diciamo, simpatia, la questione di pelle che c'è a tutti i livelli tra tutte le persone. Quindi al di là di questa spiegazione non razionale, è vero che Galliani, credo che mai come quest'anno, forse durante gli anni di Zaccheroni, si sia, come dire, prodigato nel tentativo di tamponare la situazione. Non scordiamo che il signor Massimiliano Allegri era già stato virtualmente esonerato la sera di Milan-Fiorentina 1-3, mi pare fosse l'11 novembre, ma io con le date sono un po' confusionario, e Galliani, con un miracolo tipo portiere che para un calcio di rigore, era riuscito a sventare il tentativo di Berlusconi, che era molto determinato, a trasformare questa serata invece nel rilancio della società, insomma, trasformare, a compattare un fronte comune che non sembrava possibile. Non a caso da quella partita, da quella sconfitta, da quella serata, il Milan ha iniziato a risalire in classifica. Resta il fatto che comunque Berlusconi non è mai stato convinto di Allegri e non ha perso l'occasione per esternare queste sue perplessità, occasioni sempre private, ma che nel caso di Berlusconi diventano immediatamente pubbliche e rumorose. Io credo che il presidente, io purtroppo per questioni anagrafiche lo conosco da tanto tempo, quando lui non era ancora entrato in politica ed era veramente il numero uno, perché se lo chiamavi anche alle 11 di sera ad Arcore ti dava persino il notiziario medico. Gli infortunati, sì. I medici del Milan avevano paura a rivelare, per dire. E lui è fatto così, è inutile cercare di fermarlo. I tre anni di Zaccheroni mi ricordano molto da vicino questi tre anni di Allegri. Sì. Il Zaccheroni non gli andava a genio perché qualcuno lo aveva convinto che fosse comunista, cosa peraltro non vera. Sì. Non gli andava a genio per la difesa 3, questa invece è una cosa vera. E anche lì Galliani aveva fatto, appunto, ripeto, come il portiere che vola da un angolo all'altro per tamponare, e alla fine il presidente aveva trovato il pretesto di un pareggio in casa in Champions League col Deportivo La Coruña, in cui al Milan fu negato un rigore clamoroso per esonerarlo. Adesso è leggermente più distratto da altri impegni il presidente, quindi Galliani ha avuto buon gioco, ma io credo di capire, mi risulta, che Allegri, a mio modo di vedere, questo gli fa onore, a un certo punto abbia capito, si sia reso conto di non avere la fiducia del presidente e in un sussulto di dignità professionale abbia detto: signori, io così non vado avanti. Quindi certo, credo che il signor Allegri, indipendentemente dal fatto che il Milan vada o meno in Champions League, da un po' abbia deciso di abbandonare la simpatica compagnia. Sì, ed è quello che penso anch'io. Altro capitolo, Sedorf Galliani, capitolo nascosto, sottaciuto, forse un po' così, che rimane lì nei sotterranei. Sedorf Galliani, mi risulta che i rapporti tra i due non siano mai stati buoni, nemmeno quando Sedorf era giocatore. Ma dunque, questo sinceramente non sono in grado di confermartelo, semplicemente perché non ne sono a conoscenza. Sì. Devo dire che, parlando in maniera più generica, il personaggio Sedorf non è facile. È certamente un uomo affascinante, esprime in ogni momento tutta la sua cultura. Sì. Per me Sedorf è quello che è riuscito più volte a tenere dei comizi in campo per cercare di convincere l'arbitro di avere sbagliato a fischiargli una punizione contro senza mai essere ammonito. Non è un personaggio facile, anche all'interno dello spogliatoio del Milan non è che tutti, insomma, fossero disposti a sopportarlo. Sì. Però è un personaggio che ha affascinato Silvio Berlusconi, perché forse rispetto alla cultura, il carisma. Sedor canta molto bene e Silvio Berlusconi, no, tu ridi, ma al di là di Silvio Berlusconi in certi momenti è veramente è un personaggio, sì, terra terra, sì, e a una festa del Milan io ricordo che Sedor prese il microfono, cantò con la voce di Louis Armstrong alcune canzoni di Louis Armstrong e Berlusconi si unì con lui al microfono a cantare. Quindi convincere Berlusconi, farlo desistere da un'idea che si è messa in testa, non è facilissimo, come dimostra il caso di Capello. Certo, ricordiamoci che Capello fu imposto da Berlusconi, Galliani non era convinto, Baresi e Donadoni pubblicamente si dissero non convinti. Certo. Lui lo impose. Certo, erano tempi anche in cui Berlusconi aveva meno gatte da pelare, meno casini, esatto, in giro. Un'ultima cosa secca, Alberto, una tua interpretazione autentica sulla storia di Balotelli, e lascio il campo se sento altre... è una questione pelosa, se sento altri insulti razzisti. Stamattina Nicchi ha detto: se lascia il campo, benissimo, stanno in 10. No, dunque, io trovo che Balotelli, non, voglio dire, non sia molto diplomatico, chi lo consiglia. Sì, voglio dire, io credo che debba anche darsi una calmata a lui, Boateng, lui, eccetera. Esatto, cioè, il Milan è un club abituato ad avere, parliamo solo degli ultimi 10 anni, ha avuto gente come Rui Costa, Ronaldinho, Shevchenko, sì, Kakà, e tutta gente che in campo non trasformava la partita in una lotta contro il, sì, mondo intero. Esatto, esatto, bravo. Quello che dico io, purtroppo gli spalti dei nostri stadi si stanno sempre più riempiendo di imbecilli e di idioti. Voglio dire, se a un imbecille e un idiota dice appena mi fai bu, io me ne vado al campo, l'imbecille e l'idiota lo fa due volte, però tu ti ricordi anche che lo facevano a Gullit, lo facevano a Rijkaard in altri tempi. Ma scusa, io poi chiudo, se Balotelli avesse detto se mi cantano la Vispa Teresa dagli spalti, io lascio il campo, stai pur sicuro che dalla prossima partita tutte le tifoserie, certo, avversarie si mettono a recitare la filastrocca della Vispa Teresa. Alberto, è sempre un piacere parlare con te, senza peli, grazie, sulla lingua. Grazie. Grazie. Grazie ad Alberto Costa. 800 24 00 24, e adesso tocca a voi, strade. Tutti convocati. Cacciatori. Dunque, come sapete, oggi è anche giorno di basket e poi ne parliamo. È giorno di ritiri, nuovo ritiro a Roma, agli internazionali di tennis. L'Errani va in semifinale perché la meravigliosa Sharapova da forfè. Al Giro d'Italia invece si ritirano due grandi protagonisti della vigilia, ormai attardatissimi, Wiggins ed Ejedal, vincitore dell'anno scorso, Ejedal al Giro e Wiggins vincitore del Tour. Ciao a tutti, vanno a casa e per Nibali strada spianata. Ma svegliatevi, 800 24 00 24, siamo ora in tema di intrighi di palazzo, e allora le cimici hanno pescato le ultime dichiarazioni di Berlusconi. Mi sembra un tema interessante. Ultime dichiarazioni di Berlusconi ieri sera a Roma, cena a favore di a sostegno del sindaco di Roma. Ebbene, Berlusconi ha parlato poi, come si succede sempre in politica, perché questa è anche politica. Gasparri ha smentito, Berlusconi non ha detto queste cose alla cena romana in favore di Alemanno. Ebbene, le cimici, sentiamo. Non si capisce nulla, ma le cimici piazzate sotto il tavolo sono così, bisogna decriptarle, no? E quindi quello che è uscito l'avete letto oggi sui giornali. Questi erano gli effetti sonori delle cimici piazzate sotto il tavolo. 800 24 00 24, il numero verde. C'è chi potrebbe dire che a sostegno di... Allora, io ripeto, secondo me Allegri ha fatto una grande stagione al Milan. Poi però c'è chi potrebbe guardare i numeri e i soldi. Allora, il Milan è la squadra che in Italia ha il monte ingaggi più elevato, e questi sono numeri ufficiali, 120 milioni di euro per costa il Milan di stipendi. La Juventus costa 115, e tra Milan e Juventus ci sono 18 punti in classifica. Poi c'è l'Inter che ne spende 100 di ingaggi, Napoli 53, la Fiorentina che domenica potrebbe, Siena volendo, poi non succederà perché prevedo un 2 in schedina a Siena, un 2 schedina a Pescara. Fiorentina con 38 potrebbe mangiare il terzo posto al Milan. 800 24 00 24, numero verde. Poi vi faccio anche sentire Zeman su Balotelli. Giorgio, Roma. Pronto, buonasera, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Senta, no, io volevo solamente dire, secondo la mia modesta opinione, che i cori che sono stati fatti la scorsa domenica dai tifosi romanisti non sono per Balotelli in quanto persona di colore, ma per Balotelli come persona antipatica, come persona allora Giorgio, io ribatto persona... perché Belati, perché Latrati e non Fischi? Perché se fosse stato, perché l'altra volta allora quando non so se un anno fa quando giocava con l'Inter, due anni fa non mi ricordo, a Torino fecero il coro se Saltelli muore Balotelli, ma sì. non perché è una persona nera, perché è una persona estremamente irritante. Infatti io dissi se Saltelli muore Balotelli coro di nessun gusto e di nessuna eleganza, qualcosa di... non c'è niente di legato al colore della pelle, che a me danno fastidio, pur fatta la dovuta tara e senza le esagerazioni del caso. Balotelli, giocatore antipatico alle tifoserie avversarie, e ci può stare, come tanti altri sportivi, come Mourinho antipatico alle tifoserie avversarie, come Dino Meneghin lo era per tutti gli avversari, perché è forte, vincente e duro in campo. Però c'è, allora perché non i Fischi e perché questi Latrati? Io non capisco se lo si vuole colpire, se lo si vuole così denigrare sportivamente. I Fischi possono essere un metodo civile, oppure con la fantasia che i tifosi sembrano aver perso si possono sventolare fazzoletti bianchi come fanno in Spagna, si può inventare qualcosa di diverso. E ricordo sempre quello famoso striscione Giulietta Nazzoccola, che esprimeva tutta l'ironia che si può esprimere nel tifo, pure in tempi in cui tutte le volte che il Napoli giocava a Verona uscivano dei cori che erano anche peggio di quei bu. Ebbene, perché colpirlo su quel punto? Zeman cosa ha detto su Balotelli? Il discorso su Balotelli è un po' strano, nel senso che non è Balotelli perché è Balotelli di colore diverso, è Balotelli perché attira con le sue, quindi lei del partito, i suoi atteggiamenti qualche cosa, ma se a Totti fischiano su tutti i stadi lo offendono. Per me è la stessa cosa nel calcio, magari purtroppo oggi si gioca sul colore della pelle, che per me non è così, nel senso altri giocatori del Milan non gli fanno niente. È comportamento, io penso che se uno si comporta bene non ci succede niente. Questo parere di Zeman che condivido. Tutti convocati. Allora ci sono dei cinguetti, dei tweet che dicono che la Juventus è in trattative avanzate con Carlos Tevez. Ve la vendo così come esce dai cinguetti. A proposito, siamo collegati anche noi con Twitter, seguiteci. Grazie Osvaldo dalla provincia di Treviso che ci ha aspettato. Sì, pronto. Ciao. Buon pomeriggio a tutti intanto. Io volevo fare una considerazione più generale rispetto anche al tema di Balotelli e dei cori. Sì. Quello, il problema, parlo da padre di famiglia, che negli stadi italiani vi è una minoranza, chiamiamoli ultras o quello che volete, che condizionano tantissimo la possibilità di gente comune, con figli, con famiglie, di accedere allo stadio, di vedersi tranquillamente in santa pace una partita. A parte il clima che si respira in qualsiasi stadio italiano, che è un clima di continua opposizione, continuo tifo contro, mai sì. Tifo a favore, non c'è un tifo organizzato. Io posso portare la testimonianza personale del tifo a Barcellona. Per un anno sì. Ho avuto la possibilità di vedere al Camp Nou la squadra del Barça, indipendentemente da questioni di gioco, sì. Ovviamente. Osvaldo, sì, però, perdonami, qui non siamo né in Spagna né in Inghilterra, purtroppo, e non possiamo rifarci come al solito a quegli esempi. Io, insomma, penso che oggi il tifo non sia meno maleducato di quanto non fosse negli anni 70, 80, 90. Non penso che sia cambiato molto, anzi, intorno al calcio c'è probabilmente meno violenza, anche se quell'aria fastidiosa che si respira dentro agli stadi esiste, come tu dici. Però io penso che, comportandosi in questo modo e sottolineando l'importanza di questi quattro idioti, si faccia il loro gioco. Semplicemente questo, è l'unica cosa che dico. Poi è ovvio che sono quattro idioti o dieci idioti o cento idioti, però la storia è questa: si sottolinea e si evidenzia il loro gioco. Allora andiamo in America. Più due match, la partita si accende, la serie decolla, il palleggio per Michael Jordan è a spazio, tutti lo aspettano, può essere l'ultima azione della sua carriera NBA, Michael Jeffrey Jordan! Allora, non ancora in America, Flavio Tranquillo, ancora da queste parti, ma a raccontarci i playoff. Ciao Flavio! Buondì! Allora, gli Spurs nella notte che si qualificano battendo la magnifica Golden State e vincendo a Oakland, Oklahoma City eliminata, ma l'eliminazione probabilmente risale al forfait di Westbrook di qualche settimana fa. New York che rimane aggrappata ai vetri vincendo gara 5 con Indiana, ma sempre sotto 3-2. Tutto adesso c'è San Antonio che gioca con i magnifici Memphis Grizzlies, però mi sembra che tutto cospiri a favore di Miami. Sì, tutto cospira a favore di Miami, però non credo che la gara 5 di Miami sia un caso. Per esempio, la fatica che hanno fatto contro Chicago, e da qui in poi sostanzialmente di squadre con la consistenza fisica e mentale dei Bulls ne troveranno. Indiana è una di queste squadre, New York nel caso lo è sicuramente, Memphis o San Antonio in finale. Quindi tutto cospira per Miami è la grande favorita, ma questi playoff sono a sorpresa con la S maiuscola, e sarei tutt'altro che stupito che il cammino sia accidentato per gli Heat. Ma questa sfida tra San Antonio e Memphis, che esce dalla serie con Oklahoma, che esce tutto sommato dalla tana degli underdog, no? Giocando una bellissima pallacanestro, come la inquadri? Ma la inquadro all'inizio, soprattutto nella difficoltà per gli Spurs di passare da una pallacanestro predicata su, sì, Curry, Jack, Thompson e, per l'infortunio di Lee, spesso un quarto piccolo o presunto tale come Barnes, a una serie contro Allen, Gasol e Randolph, quindi esattamente l'opposto. Difensivamente difficile da preparare, quasi impossibile in due giorni. Però io penso che gli Spurs siano molto meglio equipaggiati rispetto a tre stagioni fa, quando Randolph e Gasol li spazzarono via. Tutto o molto dipende, sì, dalle condizioni e dalla possibilità di recuperare tra una partita e l'altra i Ginobili, e dalle condizioni fisiche di Parker. Con, sì, un Parker e Ginobili vicini al 100, perché nessuno è al 100 nei playoff, direi leggermente favoriti gli Spurs. New York ha chance? Non ho capito, scusa. New York ha chance? New York ha chance, beh, sai, ormai finiscono tutte 80-70, quindi in un 80-70 uno chance ce l'hai sempre. Sì. Penso che però sia neanche fosse la A2 degli anni 80, insomma. Sì, penso che sia difficile se c'è George Hill. Gara 6 è difficile, se arriva a gara 7 vince sicuro New York, però non credo che ci riescano ad arrivare. L'ultima domanda gossipara: Messina accostato alla panchina degli Hawks? Ma ovviamente è presto, ma è il momento in cui si fanno i giochi. Diciamo che la notizia è sicuramente non priva di fondamento, però siamo nel processo di quelle che si chiamano interviste, non quelle che facciamo noi giornalisti, ma quelle che fanno i dirigenti, sì, agli allenatori. Le interviste vengono fatte e poi vengono vagliate, e poi il processo comunque richiede un po' di tempo, però insomma, ci dobbiamo dare i pizzicotti, eh. Parliamo di un allenatore italiano intervistato per fare il capo allenatore nell'NBA. Mi do il pizzicotto e mi accorgo di essere sveglio. agli Atlanta Hawks, che non sono l'ultima squadra della pista, anche perché di talento ne hanno e ne avranno, insomma. Non... Oh yes. Hanno un general manager come Danny Ferry che ha idee bellicose. Grazie Flavio. A voi. Ci sentiamo nella notte con Flavio Tranquillo, come sempre, questi playoff che ci tolgono il sonno, ma sono uno spettacolo meraviglioso. 800-24-0024, tra poco parliamo con coach Dan Peterson, anche di quelli italiani che pure non sono da buttare, anzi tutt'altro, mi stanno incollando alla televisione, non riesco a fare altro in queste serate. Marco da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Volevo avere una sua opinione sulla sfida, soprattutto Monte dei Paschi Milano, come la vede, se Siena adesso insomma si è un po' ripresa dopo le prime due partite iniziali. E poi le volevo chiedere se anche lei è d'accordo sul fatto che l'Olympiakos ha dato proprio l'impressione di essere una squadra e un allenatore che secondo me è bravissimo. E poi mi ha dato proprio l'idea di avere una compattezza fuori dal comune anche rispetto alle altre squadre dell'Euroleague. Sì. E poi un giocatore che veramente io ruberei, che è Karl Heinz, che lo vorrei vedere sul parquet del Palestra di Siena. Grazie. Yes. Marco, l'Olympiakos per anni ha speso una montagna di quattrini ingaggiando, si ricorderà, Childress, strappato alla NBA a quanti soldi per molti anni ha cercato di costruire la squadra con costosissime figurine, poi è arrivata la crisi, anche loro si sono accorti che invece le figurine dovevano fare collezione di giocatori funzionali di pallacanestro, si sono affidati a Mister Europa, che è Spanoulis, hanno una squadra che è un blocco vero, hanno una squadra che gioca una grande pallacanestro e sono riusciti anche loro da underdog, sia l'anno scorso più l'anno scorso che quest'anno, ma pure quest'anno, a vincere l'Eurolega. Quindi probabilmente sono un esempio di come si debba costruire oggi una grande squadra di pallacanestro europea ad alto livello, cioè non serve andare a strappare Kleiza, appunto Childress, appunto altre superstar costosissime all'NBA. Bisogna avere un grande allenatore ed essere funzionali alla pallacanestro che si gioca in Europa, e per la pallacanestro che si gioca in Europa servono giocatori come Diamantidis, come Spanoulis, guarda caso due greci, servono giocatori che riescono, come Navarro, Rudy Fernandez e altri protagonisti di queste Final Four, che conoscono la pallacanestro europea come le loro tasche, che sono pronti a giocare partite 55 a 60, come spesso succede, e sono pronti a difendere come un branco di lupi affamati. Quindi è questo che serve per vincere in Europa, e l'Olympiakos ha queste caratteristiche. Quanto alla serie Milano-Siena, ero convinto che dopo le prime due partite Milano sarebbe riuscita a strappare la palla decisiva, il break decisivo a Siena. Ciò non è successo, ciò rende ancora più incerta questa serie, dalla quale, sempre a mio parere, e il mio parere non conta nulla perché non indovino una, come sapete, dagli anni 70, da questa serie uscirà la squadra che vincerà lo scudetto. Simone Verona. Sì, salve, convocato per la Formula 1. Presenti. Niente, volevo fare una considerazione sul fatto che ho letto nei giorni scorsi che adesso si vogliono cambiare le gomme della Formula 1, diciamo, sì, ripara delle nuove mescole. Per carità, io da anni che seguo la Formula 1 e vedere le scene che ho visto negli ultimi Gran Premi con le gomme che praticamente si disintegrano quasi, quelle non sono certamente edificanti per la categoria. Ma non senta Simone, sfrutto la sua esperienza, ma lei ci capisce qualcosa nei Gran Premi di oggi? Perché queste gomme, allora loro ti dicono, questa gomma ti dà le massime prestazioni in 10 giri, se fai 10 giri e mezzo scoppia. Allora, secondo me è una questione di come una squadra ha voluto impostare la macchina. A mio modesto parere, per carità, non vorrei sembrare di parte, la Ferrari ha interpretato al meglio quelle che erano le gomme, perché comunque già dall'anno scorso avevano detto che le gomme di quest'anno saranno diverse e ma non erano così non erano così sofisticate, io non ho mai visto delle cose del genere. Quelle dell'anno scorso erano una cosa, però avevano detto che quest'anno le gomme sarebbero cambiate e bisognava avere una macchina che le trattasse con più cautela, diciamo, le gomme. Sì. Diciamo, quelle dell'anno scorso erano un'altra categoria, diciamo, le gomme. Certo. Però la considerazione che volevo fare io è che il fatto che accampando scuse sul fatto che non si vogliono sfaldare le gomme o che non si vada a stravolgere quello che è, diciamo, l'intento che si voleva dare a quest'anno delle gomme, cioè di avere un po' più di spettacolo, un po' più di cambio gomme, e ne con quella scusa lì favorire squadre tipo la Red Bull e tipo la Mercedes, che effettivamente sono quelli che in questi Gran Premi stanno soffrendo. Simone, però abbiamo sentito l'altro giorno Leo Turrini dire l'esatto opposto, quelli della Red Bull che sono andati a lamentarsi, i bibitari come li chiama lui, che sono andati a lamentarsi di questa eccessiva sofisticazione delle gomme e che spingono per cambiare qualcosa. Onestamente non ho mai visto una stagione di Formula 1, e ne ho viste molte, in cui ci fosse un dettaglio, una componente, non è un dettaglio ma una componente così importante, così sofisticata come le gomme che si usano oggi. 800 24 00 24, traffico poi qui tutti. Allora, insomma, ragazzi, stappate le vostre lattine di bevande gassate, ma piantatela di darci lezioni di etica. Tutti convocati. C'è chi mi scrive messaggi come questo: Balotelli e Boateng dovrebbero darsi una calmata perché contestano il razzismo, lei è un coglione. Io sarò un coglione, ma io dico soltanto che dovrebbero comportarsi in maniera diversa, perché al di là delle bestie che affollano i nostri stadi in questo modo e con questi atteggiamenti, non si fa altro che sottolinearne l'importanza, mentre questi dovrebbero essere possibilmente presi e allontanati dagli stadi. Io contesto un eccessivo uso demagogico che si fa di questi argomenti, che peraltro non sono affatto nuovi. È chiaro che siamo nel 2013, è chiaro che sono situazioni che vanno combattute, tutto questo è evidente, è chiaro che non c'è nulla di peggio, e su questo sono d'accordo anche se sono un coglione, non c'è nulla di peggio che colpire qualcuno per questi argomenti. Io dico però che come fanno altri, come è successo in passato, non bisogna evitare strumentalizzazioni anche un po' perverse di questi argomenti. Allora, torniamo a parlare di basket e di playoff italiani, perché ieri, come abbiamo detto prima, Siena ha pareggiato 2-2 il conto con Milano, Venezia ha vinto con Varese, si va a gara 5 sul 3-1 per Varese, ma questa serie mi sembra segnata. Allora, Banchi, coach di Siena, sulla partita con Milano. Quella di stasera è un'importantissima vittoria nel cuore della serie, che ad oggi ci permette soltanto di ottenere la possibilità di un ritorno sul nostro parquet, però ci lascia molto di più come patrimonio e in termini di consapevolezza. Questo era Banchi, coach di Siena. Sentiamo anche Mazzon, coach di Venezia, che ha vinto quello che secondo me alla fine resterà il punto della bandiera. Una partita giocata con grande attenzione, un grande primo tempo, tutti i ragazzi bravissimi, perché nel primo tempo abbiamo fatto solo 3 palle perse. Devo dire, i ragazzi realmente hanno fatto una grande gara, adesso prepariamoci, abbiamo altre, direi, 48 ore per prepararci a questa gara 5, che sarà certamente una delle più belle che si possano giocare, perché possiamo provare a rovesciare una serie, siamo lì, ci giochiamo e vediamo quello che succede. Well, now they gave him his orders at Monroe, Virginia. They said, Steve, you're way behind time. This is not 38, this is old 97. Put her in the Spencer on time. Ciao, coach. Ciao cari amici sportivi, buongiorno a tutti. Allora, dico subito una cosa forte, probabilmente una stupidaggine, adesso me lo dici tu. Il rientro di Langford ha modificato gli equilibri di Milano non in meglio. Prima o poi doveva rientrare, cosa fare in play-off senza di lui? No, sono d'accordo, però... è proprio... anche io ho fatto gente rientrare, per esempio, la prima partita di Meneghin dopo l'operazione del ginocchio, a Rieti abbiamo perso. Ricordo, okay? Quindi, però, ricordo. Bisogna fare la gente rientrare, probabilmente... Può essere anche così, però vediamo cosa succede da qui in poi. Però Meneghin era Meneghin, quella dopo, la partita dopo Rieti, se non ricordo, era in casa con Pesaro. Che voi, la ricordo più di te, vedi tu. Con cui giocaste la finale scudetto, quella dopo era con Pesaro, Meneghin giocò naturalmente, vinceste al Palazzone, quella fu poi la finale scudetto. Certo, Meneghin certo. È Meneghin, Langford è Langford, Gentile è Gentile, che era stato protagonista di questa serie. Sai, giocatori e minuti modificano gli equilibri. Esatto, comunque è chiaro che il suo rientro doveva portare qualche scompenso, questo non lo nega nessuno, certamente anche Sergio Scariolo, la squadra, tutti quanti sapevano questo qui, però è magari un sacrificio che hanno fatto per recuperare un giocatore. Vediamo domani sera cosa succede, quindi è chiaro che questi rientri proprio in piena corsa, a metà strada, portano qualche difficoltà, qualche scompenso, innegabile questo, okay? Però bisogna vedere cosa succede da qui in poi, okay? Quindi vediamo domani sera se la presenza di Langford dopo la partita, ha giocato Siena, gli dà qualcosa in più. È un investimento che hanno fatto con alto livello di rischio, questo è sicuro. Coach, 0-2-2-2, chi ha l'inerzia? Ma finora è il fattore campo all'inizio, ok? Quindi Milano ha vinto due partite a Milano, la prima in maniera molto convincente, secondo Cardio Palma. Siena ha vinto la prima, Siena molto convincente, secondo abbastanza Cardio Palma, ok? Quindi sono due squadre che si equivalgono. Non dimentichiamo, Carlo, sono due squadre da Eurolega, come Cantù, una squadra di Eurolega che si è visto in queste due partite che hanno giocato in casa, quindi sì. È chiaro. Siena, Sassari Cantù 2-2, Roma Reggio Emilia 2-2, Roma che ha recuperato il fattore campo. Sassari Cantù difficile da leggere, Roma Reggio Emilia forse meno. Guarda, Cantù, ho sempre la gente mi dice no, ma Cantù è morto, settimo posto, non sono uguale, ha perso Marcos Villa. Sono preso questo ragazzo Ragland, che anche lì è un rischio, che inserirlo in pieno corso qui, però infatti la prima partita non tanto bene, ok? Ieri ha dominato la partita due giorni fa proprio con gli avversari, sì. Quindi tutto lì bisogna gettare il dado, trattare il dado, ok? Bisogna rischiare qualche volta. Io ho corso tanti in queste cose, mi ricordo il primo anno a Milano, Mike D'Antoni, frattura stress, fatto rientrare contro Pesaro, fra l'altro, non era 100%, però l'ha fatto rientrare nell'83-84 dopo lo strappo che ha avuto lui proprio. Quindi è chiaro che ci sono rischi in queste cose, però Cantù, Milano e Siena sono tre squadre da Eurolega che hanno avuto una grande esperienza quest'anno, quindi occhio a loro. Sì, e i playoff sono i playoff, cioè qualcosa play-off di meraviglioso. Meraviglioso. Anche Carlo, adesso Venezia sotto 3-1, in ogni probabilità domani sera Varese potrebbe però anche chiudere vediamo, il conto. Però vediamo, perché i playoff sono i playoff. Grazie coach, ti abbraccio. Ciao Carlo, ciao a tutti. Grazie a coach Dan Peterson e a voi. Ci sentiamo domani dalle 5 alle 6 per il magazine di tutti i convocati. Franco Piantani, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Ciao. Cacci soldi. Tutti convocati.